Siamo con la gallerista Francesca Antonini per parlare della mostra di Alessandra Giovannoni a Roma, all'Auditorium Parco della Musica, dal 13 settembre al 10 ottobre. Francesca, ben trovata. Ce Grazie, ben trovati anche a voi. la presenti? Dunque, io intanto vi volevo presentare Alessandra Giovannoni, che è un'artista con cui lavoriamo da, ho perso il conto, ma minimo 25 anni tutti, Sì. ed è un'artista nel senso più rotondo e più nobile del termine, nel senso che è un'artista autentica, che dipinge nel modo più vero, più istintivo, e soprattutto il suo grande amore è la sua città. E allora io devo dirti la verità, anche spinta un po' da come la nostra città negli ultimi tempi, e oserei dire dalla nuova gestione, dal nuovo sindaco, è sprofondata in una stupenda intellettuale, creativa, di gestione degli spazi pubblici. Parlando con Anna Cestelli Guidi, che dirige la parte di arte dell'auditorium, ho detto: perché non mettiamo in mostra gli ultimi quadri che avevo appena visto di Alessandra Giovannoni sulla città, in cui proprio ti riconcili con la città, con la bellezza, con la pienezza di luce e di splendore che questa città riesce a darti, nonostante un'incuria di questi ultimi 2 anni, o 3, ho perso il conto. E per fortuna Anna Cestelli ha accolto con entusiasmo la mia proposta, e quindi abbiamo messo insieme un numero di opere che sono principalmente il Lungotevere e i ponti del Lungotevere, su cui lei si è concentrata ultimamente, perché diciamo uno dei suoi temi più ricorrenti è stato Villa Borghese per molti anni, e invece ultimamente ha fatto dei quadri sui ponti di Roma e su alcune parti del Lungotevere che sono straordinari. In alcuni casi uno sa perché vede la didascalia che sono dei quadri del Lungotevere, ma potremmo essere a Tunisi, come potremmo essere in un luogo anche non perfettamente riconoscibile, Sì, in no? questo senso, Francesca, mi sembra che sia dalle impressioni, vedendo alcune opere online, mi sembra che sia una luce molto forte estiva. Assolutamente, infatti Alessandra ti racconta per ogni singolo quadro l'ora in cui ha fissato nei suoi occhi la luce, perché poi non a caso la mostra si chiama La luce di Roma, perché quello che più di tutto, oltre, è inutile che stiamo a ricordare la bellezza, i monumenti e quant'altro, però quello che la ispira principalmente è la luce che questa città ci regala, e il contrasto con le ombre. Ovviamente uno dei suoi momenti più prolifici è l'estate, perché c'è una luce molto più forte, molto più contrastata, molto più perpendicolare, non Sì, so come sì, dire, sì, e sì. quindi anche i monumenti o comunque gli scorci della città che lei racconta hanno questo gioco di luci ed ombre che sono perfetti per il suo tipo di pittura. Lei non dipinge en plein air assolutamente, lei si fa degli schizzi camminando per la città e imprime nei suoi occhi il tipo di contrasto che vuole andare poi a rappresentare, e poi torna a studio e produce meraviglia. Francesca, quante sono le opere esposte? Le opere esposte, se non mi ricordo male, sono 8 opere di grande formato, dove grande formato è una, è addirittura 1 metro per 4, e 3 opere invece più piccole, che inserite nel foyer sinopoli dell'auditorium. Tanto che oggi, quando abbiamo finito l'allestimento, ho detto dovrebbero tenerle qui per sempre, perché ci stanno benissimo. veramente meravigliose, siamo molto contenti del risultato. Dato che avete un lungo trascorso insieme, volevo chiederti anche com'è stato e qual è stato il suo percorso artistico negli anni. Dunque, Alessandra ha fatto l'Accademia, adesso non so quanti anni fa, ma tanti, facendo scultura, tant'è che le figure che lei dipinge nelle sue opere, uno conosce questa sua formazione, si vede che c'è un modo di trattare la figura in modo molto scultoreo. Alessandra, quando ci siamo incontrati e conosciuti, è stato un amore immediato, reciproco e un sodalizio anche professionale che continua nel tempo. Sta in molti musei, a cominciare dalla Galleria Comunale a Roma, la GNAM, anzi Galleria Nazionale come adesso si chiama, in parecchi musei in Italia, dal sud al nord, e in tantissime collezioni in Italia, all'estero. L'ho portata in giro in fiere in Italia, all'estero. In 25 anni abbiamo veramente fatto molte cose e sta anche in collezioni molto, molto belle, molto gratificanti. Sì, sì, sì. In chiusura ci lasci anche tutti i riferimenti internet per seguire la sua opera? Nostro sito, che è Francesca Antonini, www.francescaantonini.it, dove c'è l'attività della galleria, e all'interno ci sono ovviamente tutti i nostri artisti, tutte le nostre notizie di programmazione attuale e futura. E poi ovviamente venite domani in tanti a visitare questa bella mostra, che comunque rimarrà aperta, come hai detto, fino al 10 ottobre, giusto? Mi confermi che non Sì, sono sì, ti confermo. sicuramente. E l'auditorium è aperto tutto il giorno, quindi a qualunque ora del giorno uno voglia passare lì, avrà la fortuna di ammirare questi quadri meravigliosi. Bene, allora un saluto e un ringraziamento alla gallerista Francesca Antonini che ci ha presentato la mostra della pittrice Alessandra Giovannoni dal titolo La luce di Roma all'Auditorium Parco della Musica a Roma. Ripeto le date, dal 13 settembre al 10 ottobre. Francesca, un abbraccio, un in bocca al lupo, a risentirci presto. E grazie a voi, un abbraccio anche a voi. Arrivederci.